Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani e Salva Danaio, bentrovati a tutti quanti in questa ultima puntata di questa lunghissima stagione radiofonica. Ci risentiremo in diretta a partire dal 31 agosto. Saremo ugualmente in compagnia ad agosto con il meglio di tutte le trasmissioni che abbiamo fatto nel corso degli ultimi mesi, e però oggi è l'ultima puntata in diretta. Di che cosa potevamo occuparci se non di mercati finanziari? Anche il mese di luglio permette di archiviare un proseguimento del recupero in corso da marzo, e per tutti gli appassionati di borsa che si lamentano sempre del fatto che i giornali parlano della borsa solo quando crolla, io invito loro a dare un'occhiata per esempio alla prima pagina del Sole 24 Ore questa mattina, che invece enfatizza proprio questa tendenza recente e soprattutto enfatizza i risultati, i bilanci societari che sono stati comunicati, diramati, rassegnati negli ultimi giorni. Il quadro che è emerso, poi lo chiederemo anche ai nostri ospiti questa mattina, sembra piuttosto incoraggiante, e non lo è tanto per Eni, che ha comunicato i dati invece in mattinata. Il titolo sta scendendo adesso del 6,27%, non è piaciuta per niente agli operatori questa prospettiva di taglio del dividendo. Parleremo anche di Eni questa mattina, ma parleremo complessivamente del trend dei mercati. Cosa ci dobbiamo aspettare ad agosto? Sicuramente molti ritengono che non bisogna cantare vittoria per quello che abbiamo visto negli ultimi mesi. L'economia reale continua a soffrire moltissimo, bisognerà vedere quante aziende riapriranno e in che condizioni riapriranno i battenti in settembre. C'è un altro problema che prima o poi dovremmo affrontare, che è quello dei deficit dei governi alle prese con i numerosissimi interventi di sostegno all'economia. E con i tassi di interesse sempre più bassi sono vicinissimi allo zero anche i rendimenti dei titoli di Stato, soprattutto a brevissima scadenza. Nonostante questo, le aste sono affollatissime. Insomma, ci sono tanti fattori da mettere insieme. Come li dobbiamo valutare? Cosa ci aspetta ad agosto, cosa facciamo con azioni e titoli di Stato? Con chi ne parliamo stamattina? Massimo Rastelli, private banker, investitori SGR Gruppo Allianz. Bentornata Salva Danaio. Buongiorno. E Angelo Drusiani, nostro affezionatissimo ospite. Gestioni Banca Albertini SIS, tra l'altro gestore di una linea monetaria, sì, esatto. Molto interessante, insomma, anche questa prospettiva che ci darà questa mattina per l'esame dei titoli di Stato, ma soprattutto autore dell'ennesima pubblicazione per il Sole 24 Ore, una nuova guida ai titoli di Stato, come dar vita ad un portafoglio di titoli pubblici, quali strumenti scegliere in base alla propria propensione al rischio. 800 24 00 24 per chiacchierare con noi questa mattina. 349 238 6666 è invece il numero per i vostri messaggi se non vorrete intervenire in diretta. Andiamo a vedere la borsa, visto che questa mattina il tema sarà proprio questo, mercati finanziari. Allora, abbiamo avuto ieri un nuovo rialzo molto interessante per i mercati. Rialzo che ha portato Wall Street ai livelli più alti dal novembre scorso. Questo è accaduto al Dow Jones, lo stesso è successo allo Standard & Poor's, che si è avvicinata alla soglia psicologica dei 1000 punti, che non viene toccata dal 5 novembre scorso. Anche ieri in America è stata la giornata delle trimestrali, sono stati comunicati i dati per esempio di Goodyear, pneumatici, più 14% ieri per il titolo. È andata benissimo, piuttosto bene anche a Mastercard per esempio, nonostante tutti i problemi del credito e delle carte di credito di cui si parla. Per il titolo rialzo ieri del 3%, però a parte il rialzo del titolo è la prospettiva del bilancio societario che è apparsa positiva. E oggi il mercato europeo ragiona su altri conti societari che sono in corso di pubblicazione, e abbiamo tutti gli operatori europei che mi pare che guardino con grande insistenza a Piazza Affari. Eni, meno 6% adesso per il titolo del Can a 6 zampe. La trimestrale, ne abbiamo parlato anche nel corso del giornale radio, ha presentato il gruppo un semestre con un utile netto in calo del 59,5% a 2 miliardi e 740 milioni di euro, ma il gruppo ha proposto un dividendo di 50 centesimi per azione per il 2009 contro i 65 centesimi dell'esercizio precedente, ma soprattutto l'amministratore delegato Scaroni ha detto la decisione sul saldo del dividendo 2009 non sarà presa prima di febbraio. E insomma, quando una società così grande parla in maniera così nebulosa, il mercato scappa immediatamente. Fondiaria meno 4,80, un altro titolo in forte calo. Parmalat meno 2,64, Mondadori e Cir in calo di un punto 0,5 STM-09 e Milano complessivamente sta perdendo lo 0,7%, non perde di più perché dall'altra parte della classifica abbiamo il volo di Bulgari più 7,70, qua invece la trimestrale è piaciuta particolarmente al mercato, Tenaris più 3, Banca Popolare di Milano più 2,64, Autogrill più 1,95, ma stamattina abbiamo anche i dati di Enel più 1,47% e al di là dei conti e dei dati societari l'utile netto nel semestre è aumentato del 28% a 3 miliardi e mezzo di euro. Il gruppo ha fatto sapere anche che tornerà sul mercato delle obbligazioni anche per il popolo dei piccoli risparmiatori del retail. Ah, ecco, Angelo. In genere le ultime emissioni sono riservate solo agli investitori istituzionali. Esattamente, infatti tra l'altro Enel l'ha fatto già, ha fatto di recente insomma la sua grande operazione, poi magari torneremo a parlarne. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi dopo il blitz di Angelo Drusiani, 349 238 6666 il numero invece per i vostri messaggi per discutere di borsa e titoli di Stato. Adesso come sempre la nostra scheda. La stagione delle trimestrali e la voglia di ripresa spingono le borse mondiali in territorio positivo. Il quadro emerso dai conti di alcuni big societari sembra dunque aver riportato un po' di ottimismo su entrambe le sponde dell'oceano. Dopo una correzione durata circa 3 settimane, infatti, i listini hanno ripreso con vigore a salire, tanto da superare in alcuni casi i precedenti massimi dell'anno. Ma se gli indici delle principali piazze finanziarie sembrano aver intrapreso per il momento la strada del rialzo, prosegue invece senza sosta, asta dopo asta, la caduta dei rendimenti dei titoli di Stato. Un fattore quest'ultimo che non sembra però scoraggiare i bot people, che continuano a superare con la loro richiesta l'offerta di titoli. È accaduto ad esempio anche per l'ultima asta di bot semestrali martedì scorso, quando a fronte dei 10 miliardi di titoli offerti e collocati sono arrivate richieste per 14,4 miliardi. Non importa dunque se i rendimenti netti superano di poco lo zero. La sicurezza è ancora una volta la parola d'ordine che guida e determina le scelte di investimento. La crisi dei mercati finanziari ha spaventato e non poco le famiglie italiane. Nel corso del 2008, i crolli delle quotazioni sulle borse internazionali hanno fatto aumentare l'avversione al rischio degli investitori retail. Tanto che, stando alla relazione annuale della Consob per il 2008, l'11% della ricchezza finanziaria complessiva delle famiglie si è spostata dagli strumenti più rischiosi come azioni, obbligazioni e prodotti del risparmio gestito ai più sicuri depositi e titoli di Stato. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi. Tra l'altro, mentre ascoltavo la scheda mi sono ovviamente resa conto di aver detto un'enorme sciocchezza, perché l'ultima grande emissione obbligazionale del nostro paese è stata quella di Eni, non di Enel. Eni sì, l'aveva fatta un paio d'anni 2007, prima, esattamente, era stata anche piuttosto intensa, piuttosto importante, mai quanto quella di Eni. E basti ricordare insomma il rapporto fra domanda e offerta che c'è stata rispetto a questa maxi emissione. Ma magari Fiat. Sì, infatti. È stata spaventosa, 10 miliardi contro i due offerti. Quella dell'altro giorno. 1,250 miliardi offerti, 10 miliardi richieste. Che cosa vuol dire, Drusiani, tutto questo? Vuol dire che al di là della versione a rischio a cui facevate riferimento, indubbiamente gli risparmiatori stanno dando vita a dei portafogli che sono suddivisi in parte con la sicurezza e in parte con la redditività. Cioè c'è questo desiderio di avere comunque dei rendimenti che siano relativamente elevati a fronte di una grossa fetta dedicata alla sicurezza. Tra l'altro c'è anche questa, come dire, tendenza ad analizzare, che è molto interessante, perché abbiamo visto allora aste e titoli di Stato affollatissimi, una grande richiesta di obbligazioni societarie e allo sportello bancario una grande capacità di mettere sul mercato e di vendere da parte delle banche stesse le proprie obbligazioni bancarie. Quindi insomma sono tutti fattori che si mettono insieme e che continuano rastelli a mantenere molti investitori lontani dalla borsa, al punto che il grande rally partito da marzo in molti l'hanno perso. Sì, direi che questa è la caratteristica fondamentale di questo rally, ma oserei dire che in tutti i momenti di svolta dei cicli borsistici. E a nostro parere, a mio parere, questo è un momento di svolta, cioè mi sbilancio a dire che i minimi di marzo, probabilmente sul grafico, quando lo guarderemo fra 1, 2 o 3 anni, sarà un punto di minimo da cui il mercato è ripartito. È ovvio che in questa situazione la gravità del biennio che abbiamo visto, la gravità delle cose che sono successe, ha in sé una particolarità che lo differenzia un po' dai precedenti cicli negativi, quello del 2001, delle Torri Gemelle per intenderci. E quindi l'intensità del calo, il terrore che si è determinato nei risparmiatori, ma non solo nei risparmiatori, ma anche nei gestori professionali, è stato tale che non dimentichiamo che il paradigma, diciamo, la visione era il mondo sta per finire e i prezzi delle obbligazioni societarie e delle azioni, questo riflettevano. Le banche erano virtualmente, in base ai prezzi che esprimevano, fallite. Le obbligazioni bancarie, ricordo sempre il caso dell'obbligazione Unicredito, Capitale Unicredito, obbligazioni Tier 2, subordinate, erano arrivate a valere 70. Cioè quelli non sono prezzi che esprimono una razionalità valutativa, ma esprimono una consistente paura di fallimento anche del sistema bancario. Quindi io direi che partendo da una fase di quel genere, è ovvio che questo momento di svolta è ancora più macchinoso, è ancora più vischioso, è ancora più faticoso. Questo mi porta alla tesi, che non credo sia particolarmente originale, che davvero questo enorme rialzo, perché un rally di questo tipo non si vedeva da post crisi petrolifera degli anni 70, quindi un'occasione, se vogliamo, storica, è stata persa, direi, da una stragrande maggioranza degli operatori, dal piccolo risparmiatore fino all'operatore professionale, proprio per il terrore che l'ha preceduta. Ma se l'hanno persa tutti questa occasione, chi l'ha fatta questa occasione? Allora mi chiedo, Rastelli, qualcuno avrà comprato per aver provocato questo rialzo così forte, più 40%, più 50% per alcuni listini dei minimi del 9 marzo? No, ma infatti ecco, la domanda che mi faccio questa sempre. Questa è la domanda più giusta, cioè come fa un mercato a salire del 50% se tutti dicono partecipa? Che nessuno abbia comprato? È un mercato che innanzitutto per una certa fase non ha espresso volumi enormi, quindi con volumi anche non significativi ma orientati in una certa direzione si è creato una pressione al rialzo. Ci sono state anche posizioni di chiusure di scoperti, immaginiamoci tutta quella serie di operatori, ad esempio come gli hedge, che per molti mesi hanno liquidato senza posa solo per creare cassa, per fronteggiare dei riscatti. Nel momento in cui è venuto meno questo timore dei riscatti, tante posizioni sono state ricostituite. Quindi oserei dire che c'è stata una quota molto piccola del mercato che ha agito in una direzione ben precisa e la gran parte degli operatori è stata alla finestra. Ma questo però introduce la fase 2, ovvero... Esatto, che adesso qualcuno si aspetta un'altra bella azione di pulizia dopo questo rialzo degli ultimi mesi per rimettersi in carreggiata. Ecco, esatto, questa potrebbe essere l'interpretazione, ovvero se il mondo è tuttora pieno di titoli di Stato... E neanche tutti i titoli di Stato, perché ricordiamo una cosa, i titoli di Stato sicuri ormai erano solo i Bund e gli OAT, perché Dio ci scampi dall'Italia, dalla Spagna, dalla Grecia, paesi che dovevano chiaramente fallire, no? Quindi per carità, quindi chi si è arroccato su quelle posizioni e che ha i rendimenti che si ritrova adesso dovrà fare il passo a un certo punto di riconsiderare il rischio che era ormai completamente escluso dal panorama degli investimenti. Quindi questo, a mio parere, costituisce un supporto per il futuro. Certo, no, allora reintroduco Angelo Drusiani. Quando sarà secondo lei il momento di rifare questo passo che indicava Massimo Rastelli alla luce del fatto appunto di come stanno andando anche le corse ai titoli di Stato in questa fase, magari partendo proprio dalla situazione italiana? Ma io credo che per quanto riguarda la versione a rischio e la volontà degli investitori di posizionarsi su titoli di sicurezza, siamo arrivati a una fase in cui probabilmente il problema si sta lentamente asciugando, nel senso che credo che tutto sommato, se ben guardiamo, io sono ancora sorpreso ad esempio che gli Stati Uniti e l'Inghilterra siano assegnatari della AAA, quando le banche inglesi, le banche americane sono state salvate largamente dal tesoro americano e dal governo americano. Noi, con tutti i difetti che abbiamo, visto che le banche italiane generalmente... Abbiamo sempre avuto un basso profilo che abbiamo mantenuto. Esatto. No, più che altro le banche italiane finanziano chi ha già soldi, quindi di grossi rischi ne hanno corso molto pochi. La propensione al rischio delle aziende, delle banche italiane è come gli investitori italiani, quindi è relativamente più bassa rispetto a quella che è la propensione al rischio degli investitori esteri, quindi le banche all'interno hanno meno titoli in sofferenza di quanto ne abbiano altrove. Va indicato però un aspetto che a me preoccupa un po', e qui chiedo anche a Rastelli, cosa ne pensi? Molte banche hanno fatto risultati eccezionali col trading, ma hanno anche in portafoglio dei titoli che sono valutati a prezzi che secondo me sul mercato non esistono, mm-hmm. nel senso che sono prezzi stra sopravvalutati, sono titoli obbligazionari che secondo me il mercato ne hanno zero, e quindi anche questo ha contribuito sensibilmente a ottenere dei buoni risultati, quindi questo sicuramente crea quell'ottimismo che alla fine poi serviva. Ci traduce Rastelli quello che ci sta dicendo Drusiani, che tipo di titoli hanno in portafoglio le banche e che dovrebbe indurci anche a mantenerci lontani da un investimento nel settore bancario italiano dal punto di vista azionario, se magari qualcuno fosse attratto da questo comparto? Ma anche proprio qui, alla luce del fatto che diciamo sempre che il sistema bancario italiano è stato molto più solido, molto più prudente anche nella gestione della leva finanziaria negli anni passati, quindi tutte queste virtù qui. Ma allora, questo è sicuramente un dato di fatto, cioè paragonare banche italiane, diciamo anche le primarie, con le banche inglesi, americane, piuttosto che alcuni grossi colossi svizzeri, si è dimostrato un paragone non pertinente, vista la diversa mole e qualità del portafoglio in titoli. Io quello che voglio, allora, il dettaglio e la valutazione puntuale dei titoli che possono essere nel portafoglio di Unicredit ovviamente è qualcosa che sfugge dall'esterno, nel senso che è qualcosa che può fare internamente solo il responsabile del bilancio di Unicredit. Il volume assoluto di questi titoli mi sembra che sul totale degli impieghi della società, che è impressionante, è piuttosto contenuto, direi abbondantemente meno del 10%, vado a memoria, e quindi stiamo parlando comunque di valori che sono largamente inferiori al patrimonio della società, qualunque valore gli si voglia dare. Quindi una situazione di leva e di rischio concentrato su questo genere di titoli piuttosto contenuto. Io però vorrei tornare a un altro, ancora al punto precedente, cioè esistono dei problemi, esistono dei titoli tossici, esiste indiscutibilmente un problema di questo tipo, ma è sempre una questione di prezzo poi alla fine dei titoli, no? Cioè un titolo azionario nel bene e nel male deve riflettere uno scenario. Io ho fatto l'analista per molti anni, adesso non mi vorrei dilungare, ma è solo per dare una sensazione del periodo che abbiamo vissuto negli ultimi 6 mesi. Io ho visto analisti cercare di giustificare prezzi di Unicredit, parlo di questa realtà perché la conosco, nell'intorno di 1 euro. Questa è una società che ha un patrimonio netto contabile di quasi 5 euro, un patrimonio netto tangibile, quindi al netto degli avviamenti pagati su Banca di Roma, di quasi 3. Allora, noi sappiamo che storicamente le banche hanno sempre avuto un valore molto vicino, se non superiore, al patrimonio netto. Ecco, cercare di giustificare un prezzo che è un terzo del patrimonio contabile è un'operazione che è, come dire, quasi insostenibile, cioè è un'operazione che si deve basare su un'ipotesi catastrofica. Mm-hmm. Quindi anche quello che mi sta dicendo lei, allora anche i 2 euro di questo periodo sono ancora troppo bassi? I 2 euro di questo periodo rappresentano ancora molto meno della metà del patrimonio contabile, quindi non siamo ancora in uno scenario in cui Unicredit è tornata a valere in un'ipotesi di funzionamento ordinario. Quindi il tema è che ancora questa società, questa banca, sta pagando il clima di totale sfiducia complessiva intorno al sistema? Ma posso intervenire rapidamente? Sì. Secondo me il problema non è tanto la valutazione dei titoli azionari, ma di quelli obbligazionari. E non tanto nelle banche italiane quanto nelle banche estere, che sono quelli che hanno ridato vita al miglioramento dei mercati. Perché io sono convintissimo che se andiamo a guardare i portafogli delle banche americane e inglesi salvate, dentro hanno dei titoli che secondo me non valgono assolutamente i prezzi che gli stanno dando oggi. E quindi se dovessero fare un'operazione di pulizia che ancora non hanno avuto il coraggio di compiere complessivamente. Ma difatti la famosa bad bank non è mai nata. E io sono ancora convinto che oggi, quando a fine anno si decide che un titolo vale un certo prezzo, il famoso fair value, ma non ha senso una roba del genere, perché quel mercato lì lo fanno in due. Dice questo titolo vale X, ma non è vero. Il titolo obbligazionario va, giustamente come diceva Restelli, valutato secondo quelle che sono le posizioni debitorie della banca, come se fosse un'azione. Certo. Non si può dare un prezzo di obbligazionario quando magari sono emessi 100 milioni di euro, ma chi li scambia mai quei titoli? Nessuno. Allora ci dobbiamo fermare. distratti come al solito, ci togliamo sempre le cuffie, adesso ce le siamo rimesse. Io, Massimo Rastelli, investitori SGR Gruppo Allianz, e Angelo Drusiani, Banca Albertini Sitz, che oggi abbiamo chiamato, oltre perché è un amico di Salvadanaio, ma anche perché ha scritto il libro Guida ai titoli di Stato, come dar vita ad un portafoglio di titoli pubblici. Allora, Mara, dalla provincia di Pavia, giusta, una domanda per Drusiani. Mara, benvenuta a Salvadanaio. Grazie, buongiorno, grazie di tutto. Io ho un problema sui miei BTP, che sono una discreta parte di tutto quanto io ho in portafoglio, scadenti a giugno del 2010. Ho incassato la cedola e pensavo di reinvestirlo su un tempo più lungo, allungare la scadenza, ma adesso mi trovo tutti i costi aumentati, non so più cosa fare. Costi aumentati, Mara, in che senso? Cioè, i prezzi di acquisto sono tutti sopra la pari. Certo. Mentre di solito ho sempre cercato di acquistare un filino sotto, anche questi li avevo comperati sui 96, adesso evidentemente ho dormito troppo, non so più come fare. Mara, ha dormito troppo, ma qua è anche vero che abbiamo avuto a che fare con un mercato che è sfuggito un po' di mano a tutti. Abbiamo sentito prima le considerazioni di Massimo Rastelli, anche gli investitori professionali hanno perso tante occasioni, figuriamoci noi poveri comuni mortali, Mara. Però insomma, la sua è una gran bella domanda, assolutamente pertinente con l'attualità, Drusiani. Sì, io credo che stiamo vivendo una fase in cui i tassi di interesse difficilmente saliranno in tempi brevi, quindi addirittura io mi aspetto che sui tassi a lunga, che erano saliti in maniera consistente perché c'erano timori di inflazione già da qualche tempo, si pensava che con la ripresa dell'economia il prezzo del petrolio sarebbe salito rapidamente, quindi l'inflazione di seguito sarebbe tornata su valori molto alti. Io credo invece che avremo ancora almeno fra i 10-12 mesi di relativa tranquillità, nel senso che i tassi a lunga, che in questo momento addirittura i ventennali superano il rendimento dei bot di quasi 4 punti, quindi è una differenza eccessiva. Che non si è mai registrata. Negli ultimi anni no. E siccome sono convinto che i tassi a breve non saliranno rapidamente, l'impressione mia è che sui tassi a lunga ci sarà ancora la possibilità di prezzi crescenti e rendimenti calanti. Quindi, volendo, oggi si può fare questo cambiamento vendendo il titolo che ha in scadenza nel 2010, comprando un'emissione che sia fra i 10 e i 15 anni. Ovviamente occorre essere dei cassettisti, nel senso che si compra il titolo, lo si lascia lì, si cassano le cedole interessanti e non si guarda il prezzo di mercato, perché magari fra 3-4 anni i tassi potrebbero salire. E quindi insomma, per una persona che ha mi pare di aver capito da Mara, una propensione così prudente per quello che riguarda la gestione del proprio investimento, che cosa potrebbe fare di concreto e coerente con il proprio profilo di rischio quando giungeranno a scadenza questi prodotti l'anno prossimo? Premesso che secondo me potrebbe già vendere in anticipo, già fin d'ora, e potrebbe suddividere al limite il patrimonio, se non va proprio a rischiare eccessivamente, fra titoli con durata 15-20 anni e titoli con durata 5 anni, in maniera tale da avere una duration, cioè una durata media non lunghissima. E anche se compra tutti i titoli di Stato italiani, che generalmente anche qua si suggerisce di suddividere fra le varie emissioni italiane, francesi, tedesche, eccetera, io non credo che in questo momento il tesoro italiano sia così a rischio da temere che l'investimento complessivo del portafoglio in un solo emittente possa portare dei rischi molto rilevanti, perché se compro un titolo tedesco già la differenza di rendimento è molto molto sensibile. Allora, riallontaniamoci di nuovo dal segmento titoli di Stato per ritornare in borsa. Vedo ancora Milano che perde lo 0,6%, mentre qualche altra piazza europea sta di nuovo cambiando direzione. Parigi adesso è addirittura positiva. Oggi a Milano pesano i conti di Eni. Rastelli, meno 6,21% adesso per il titolo. Allora, che i conti rispetto ad un anno fa andassero ovviamente diversamente, dato quanto è sceso il petrolio, insomma ce lo potevamo anche aspettare, questo sta accadendo a tutte le grandi major del greggio, però questa sorpresa sul dividendo nessuno se l'aspettava, a quanto pare. Ma devo dire che questo genere di titoli raccoglie i favori di investitori, di piccoli risparmiatori molto concentrati sull'aspetto dividendo, no? È chiaro che quando compri l'Enel, compri Eni, spesso sei un cassettista, spesso non hai aspettative di un titolo esplosivo, del resto non sono mai stati titoli esplosivi nella loro storia, nemmeno quando il petrolio mise a segno quella crescita esponenziale, $147 di un anno fa. Quindi questi sono titoli che vengono visti essenzialmente come dei sostituti delle obbligazioni, visibili, con rischi piuttosto calcolabili e calcolati, anche se la variabile prezzo del petrolio, abbiamo visto, gli ultimi anni ha oscillato molto, ma con una certezza, il dividendo. E quindi tu non toccare il dividendo perché è il punto sensibile. Quindi mi stupisce poco questo tipo di reazione da parte del mercato, così come mi stupì poco la reazione degli azionisti di Enel quando Enel in un colpo solo si confermò da un lato il dividendo, dall'altro però fece la sorpresa di un aumento di capitale, sì, da 8 miliardi, ovvero con una mano ne diede 3 e con l'altra ne chiese 8. Forse uno facendo... Non l'avevo mai vista da questo punto di vista, è molto interessante anche questa prospettiva. Ecco, forse... Il famoso doubt this. Ecco, volendo banalizzare, si poteva semplicemente non dare il dividendo e farne un aumento da 5, sarebbe, sì, cambiato davvero poco per l'azionista. Ecco, quindi queste sono manovre che io a volte mi chiedo perché vengono fatte, perché poi generano questo tipo di reazioni. Più che... Forse perché è stata una manovra indolore col dividendo, evidentemente gli azionisti ci hanno finanziato l'aumento di capitale, no? È stato come parte dell'aumento, un principio di vasi comunicanti, un po' stravagante se vogliamo, però è stato così. Sì, il bastone e la carota. Sì, anche perché potremmo utilizzare tutte le immagini possibili. Sì, anche perché volendo, come dire, confermare una promessa che era il dividendo lo manterremo, si è fatta un po' questo tipo di operazione. Ovviamente su altri titoli, su altri settori che sono meno legati a queste aspettative, ovvero sono settori che, perché i prezzi sono stati massacrati, perché le aspettative sono per un grosso recupero del business, cosa che per questo genere di società non avviene, la componente dividendo ha meno impatto poi sulla reazione del titolo, è questa poi la sintesi, per cui ci sono titoli che vengono visti essenzialmente per quello che dicono in termini di prospettive, e magari il fatto che taglino il dividendo può incidere di meno, quindi non mi stupisce più di tanto questa reazione. Posso fare però una provocazione? Adesso non so, ci stavo pensando, sempre ragionando sulla grande obbligazione che Eni ha lanciato poco fa sul mercato. Non è che l'avrà fatta proprio in prospettiva del fatto di tagliare il dividendo? Non so, è un sospetto che ha un senso? Può anche avere un senso, ma io credo che in questa fase in cui i tassi, i rendimenti, il costo della raccolta è così basso, tutti si cimentino ad emettere titoli, in particolare gli emittenti molto noti come possono essere Enel, che ha già annunciato altri 10 miliardi, come può essere, come è stata Fiat in Italia, ma ovviamente anche all'estero questo accade. Se pensiamo che anche la stessa Gazprom ha emesso un titolo qualche giorno fa che ha avuto un successo abnorme in questo caso, quindi anche in Italia, io credo che molti approfitteranno ancora fino a che i tassi rimangono così bassi, perché l'emissione, mettere titoli e indebitarsi anche per... Adesso l'Eni si è debitato per soli 6 anni, ma per 15-20 anni questi tassi qui, insomma, per aziende che hanno una storia abbastanza importante, che devono ristrutturare, riorganizzare, certo, il debito, certo, adesso vale la pena farlo a livelli, come dire, di tassi convenienti. Ma però giustamente, lei diceva all'inizio che molte banche stanno collocando i propri titoli ai clienti, e lo fanno in quest'ottica perché in questo momento possono raccogliere tassi veramente molto l'importante bassi. È che lo facciano in maniera trasparente, come la Consob ha indicato loro di fare. Però tornando ancora sul rapporto tra la riduzione del dividendo di Eni e l'emissione sul mercato di queste obbligazioni che sono andate tra il pubblico indistinto, allora a questo punto conviene essere in questo momento un obbligazionista piuttosto che un azionista Eni? Drusiani. Oddio, dal punto di vista del rendimento del titolo a cedola fissa, sì, non è un rendimento da trascurare, non è altissimo, però non è da trascurare. Quello a cedola variabile magari un po' meno, perché mi aspetto ancora cedole calanti almeno per 2, 3 o 4 trimestri, se non di più. Quindi è probabile che, ad esempio, comprando oggi, qui Rastelli me lo confermerà, forse comprando oggi Eni vale la pena investire, perché visto il 6% di cali. Infatti per un titolo come questo lunedì mi aspetto un recupero quasi totale, Rastelli, del valore della quotazione che ha perso oggi. Io direi qui c'è un tema interessante, no? Parlavamo prima, mi riallaccio al discorso di prima, del terrore che ha attraversato i mercati finanziari e la gradualità con cui si ritorna al rischio. Non dimentichiamo che appunto 6 mesi fa, non 6 anni fa, ci si sentiva dire, mi ricordo io, alcuni nostri clienti a cui abbiamo inserito titoli ellenici governativi, non voglio i titoli ellenici in portafoglio. Ecco, partendo da quel livello là, era ovvio che ci fosse una fase intermedia in cui rendimenti di titoli di Stato, ormai considerati tranquilli, vicino all'1%, stimolassero quel minimo di appetito al rischio per portare a casa un rendimento un po' superiore. Le obbligazioni societarie di questo livello di società, con questa visibilità di risultati, sono proprio quel passaggio intermedio per arrivare poi alle azioni, ovvero qualcosa che mi dia più del misero 0,8% di un bot, ma non ancora il salto verso le azioni. Quindi anche il successo di queste emissioni, siano esse le ENI in questa fase e successivamente le ENEL quando avverranno, diciamo che ci sta tutto ed è ampiamente prevedibile. È chiaro che poi a un certo punto l'appetito per il rischio probabilmente crescerà ulteriormente, anche i 3-3,5% che oggi sembrano già interessanti forse non basteranno più, e a quel punto cosa rimarrà come aspettativa di rendimento superiore? Forse la stessa azione ENI, per dirne una che abbiamo appena citato, forse quelle magari più legate al ciclo economico, che quindi possono avere, dopo la negatività estrema di quest'anno, spazi di crescita anche maggiori. 800240024, io vi ricordo ancora il numero verde. Oggi sta avvenendo una cosa piuttosto strana, chiamano tanti ascoltatori, li richiamiamo per intervenire in diretta, non rispondono al telefono, non lo so, ci sarà un blocco, una paralisi delle telecomunicazioni italiane in questo, saranno tutti quanti in vacanza, quindi ci ascoltano volentieri, ci danno magari qualche pungolo, ma poi non riusciamo a ripescarli. Posso fare una domanda io a Restelli, che mi è incuriosito? Sì, Angelo la può fare, poi gli rispondiamo dopo. Sì. I suggerimenti per chi è in viaggio, va, fate, insomma, ormai io vado in ferie praticamente fra poco meno di mezz'ora, per cui siete liberi di fare quello che volete. No, a me è piaciuto, ha detto che dal punto di vista della prossima emissione dell'ENI sarà un successo clamoroso, cioè potrà essere un buon successo l'emissione obbligazionaria, probabilmente come lo è stato negli ultimi mesi ENI, Fiat e quant'altro. Sì. Allora mi chiedo, i valutatori quando stabiliscono il prezzo di un'obbligazione che deve essere emessa, ma perché la emettono, stabiliscono un prezzo, poi il giorno dopo sul mercato questo prezzo sale di 3, 4, 5 punti? È possibile che non si riesca a cogliere, al di là di quelle che sono le prospettive aziendali, debiti, rating, eccetera, anche l'umore del mercato? Perché non si fa riferimento anche all'umore? Perché è vero, magari fra 6 mesi l'umore è completamente opposto, però adesso che l'umore è positivo, ma perché non fai risparmiare l'azienda quei 15, 20, 30 milioni come sarebbe successo con Fiat se il prezzo fosse stato aumentato di un paio di punti? Bella. Eccoci di nuovo di ritorno a Salvadanaio. Allora Massimo Rastelli si stava interrogando Angelo Drusiani sulle modalità con cui i valutatori stabiliscono i prezzi delle obbligazioni corporate in prospettiva di questa obbligazione di Enel, chissà quando arriverà. Adesso insomma l'azienda in questo senso indicazioni temporali non ne ha date, però ma io arriverà. non è che abbia la risposta giusta. Ho la sensazione che in questa fase le aziende abbiano come primario obiettivo quello di fare emissioni che siano un successo, no? Marketing. E qui, no, esatto, credo che ci sia molto questa componente. Molti hanno definito così l'operazione di ENI, peraltro. Sì. Cioè ci rimettiamo qualcosa in termini di possibili introiti, però facciamo un'operazione che dia un'idea di grande successo, di grande accoglimento da parte del pubblico. È l'unica spiegazione che mi riesco a dare, perché è fuori discussione che si sarebbe potuto portare a casa qualcosa in più in quella circostanza. Quindi lo definirei anche un'operazione abbastanza furba, intelligente di marketing. È soddisfatto Drusiani della risposta? No, l'ho chiesto perché anch'io ho avuto la netta impressione che si sia disposti a pagare un marketing anche molto caro, peraltro, però dal momento stesso in cui sui mercati appare il nome strarichiesto, insomma, l'impressione che si fa sugli investitori istituzionali, ma anche quelli privati, è molto importante, quindi sicuramente si paga un effetto alla pubblicità. Io francamente spenderei un po' meno, però andrà bene così. Che vogliamo fare Drusiani? Insomma, questa è una crisi che peraltro sta portando tanti aspetti che a noi risultano ancora molto stravaganti, probabilmente questo è uno di quelli. Allora, io ho voluto con molta insistenza la domanda di Enrico da Parma, che siamo riusciti ad acciuffare adesso all'800240024, perché era una domanda che avrei voluto fare anch'io. Enrico, ai nostri ospiti di questa mattina, per cui le cedo il microfono volentieri. No, il microfono no, comunque grazie molto per l'opportunità. La mia domanda è questa, io vorrei chiedere appunto a loro se è possibile quantificare quanto sia la liquidità ancora da spendere, perché io vedo che i prezzi sono sicuramente, possono essere alti, bassi, ma forse possono essere ancora drogati, tra virgolette. Ma le aste di bot hanno una richiesta molto più alta di sì. quella che è appunto l'offerta. In borsa vediamo che i rally ci sono, e anzi direi che il rally sta proseguendo da marzo in avanti, ma per fare questo servono soldi liquidi. Ma perché anche le obbligazioni societarie di cui parlavamo adesso, appunto, le obbligazioni bancarie che allo sportello vendono, fanno man bassa veramente anche di questi titoli, Enrico? Sì, ecco. Sì, ma infatti ha ragione perfettamente. Ecco, allora la domanda poi in definitiva è questa: a parte la liquidità immessa dai governi, ma la liquidità viene stata data praticamente solo alle banche a questo punto, i piccoli risparmiatori che comunque vanno a fare la coda per i BOT, i BTP e queste cose, oppure comunque tutti quelli che vanno ad investire in borsa ora, i soldi poi allora ci sono o non ci sono? E quant'è questa liquidità? È quantificabile? Che bellissima domanda, Enrico. Allora, io non so se loro hanno come il prospetto di quanta liquidità c'è in giro, devono avere il quadro esatto di tutti gli investitori presenti nel mondo. Drusiani, però è una bella domanda, io questa ragione. Partirei dai bot. Perché la tendenza di cui abbiamo parlato fino adesso si sposa con tutto, tranne che con la crisi che abbiamo intorno. Esattamente. Bisogna che l'ascoltatore tenga conto che chi ha bot in portafoglio tende a rinnovarli ad ogni singola scadenza. Questo è un aspetto, secondo me, che strategicamente è anche sbagliato, perché molto spesso chi ha bot annuali o bot semestrali alla scadenza ricompra gli stessi titoli, ottenendo dei tassi di rendimenti di mercato a breve, però effettuando un investimento a lungo, perché sono tantissime le persone che hanno dei bot annuali da 5, 6, 10, 15 anni e continuano a rinnovarli di volta in volta. Quindi questa è una liquidità che ogni volta deriva da operazioni in scadenza. In più, non va dimenticato che nello scorso anno tantissimi investitori, sia grandi sia piccoli, hanno venduto, come diceva giustamente Rastelli, fior di quantità abnormi di titoli perché c'era la fine del mondo davanti a noi, e questi qui erano depositati in conto corrente a tassi zero o quasi, quindi adesso pian piano stanno... Poi tra l'altro, esatto, noi abbiamo parlato per esempio dei conti di deposito in tutto il nostro raggio di prodotti di risparmio e di investimento, un grandissimo parcheggio che ha avuto un largo successo adesso, Rastelli, anche questo ha contribuito a mantenere ancora lontani dalla borsa. Sì, sì, ma direi qualunque cosa che potesse rientrare sotto la definizione di non rischioso, però ancora una volta lo dico, sì, quasi come battuta, ricordo che otto anni fa la gente si preoccupava se avrebbe rivisto i propri 100.000 euro depositati a Banca Intesa piuttosto che Unicredit, per far capire dove eravamo. Guardi, non ho mai fatto tante trasmissioni come tra settembre e ottobre, esatto, sul fondo interbancario di tutela dei depositi. Esatto. Sapevamo 100.000, tutto. 100.000, 102.000. Fino ad agosto nessuno sapeva che esistesse questa istituzione. Mi divido su 5 banche per se è accumulabile, esatto, o meno. Esatto. Ecco. Quindi, partendo da quel livello lì, è chiaro che i soldi stanno in queste forme. Cioè, stanno dove il massimo del rischio è il titolo di Stato, possibilmente a breve, possibilmente il bot, il minimo è il conto con tutte le proposte anche di conti online, sì, che sì, offrono quei tassi di ingresso, eccetera. Quindi, per rispondere all'ascoltatore in maniera molto sintetica, che vuole quantificata, quantificata tutta questa, adesso tutta farò due conti un attimo qua farò due conti, non le garantisco una risposta immediata, ma la sintesi estrema è: ce n'è tanta e ce n'è abbastanza per poter dire che se una piccola, minima parte del portafoglio degli italiani, parlando di persone fisiche, dei gestori di patrimoni, parlando di professionisti, si riorienta verso il mercato azionario, si crea una domanda di azioni tale da garantire il proseguimento di questo movimento rialzista. Non mi chieda se nel brevissimo termine, ma io sto parlando qui in un'ottica di medio termine, perché certo che nel breve abbiamo assistito a un rally di portata veramente storica. Se questa liquidità dovesse cominciare a riversarsi sul mercato azionario, secondo lei a quale tipo di incremento dei valori di borsa potremmo assistere? Perché lei è lampeggiata questa, no, questa luce negli occhi che lei ambide l'ora? No, diciamo che qui è importante mettere dei paletti, no? Qui l'importante è dire: i minimi li abbiamo alle spalle? Direi ragionevolmente di sì, questa non mi sembra un'affermazione da fanatici. Siamo rientrati in un trend di medio-lungo termine rialzista? Direi di sì, perché ci sono tutta una serie di elementi macroeconomici, di avvistamento di una certa ripresa, eccetera. Che sia un po' un bull market travolgente, questo forse non lo possiamo dire, però diciamo ci sono spazi di crescita tali per cui investendo in azioni oggi a 12 mesi io credo si rivelerà un ottimo affare, e probabilmente anche a 24 mesi. Quindi Ecco, questa è una di quelle situazioni dove però appunto ci si scontra con una propensione al rischio che è ancora molto molto, molto bassa. Contenuta, molto, molta prudenza ancora. Liliana dalla provincia di Roma, mi dicono i miei collaboratori che lei è davvero molto simpatica. Buongiorno. Buongiorno, la ringrazio e ringrazio anche voi delle interessanti discussioni che sono veramente piacevoli. Dunque, io come molti non sono ancora rientrata nel mercato azionario perché ho ancora delle azioni ovviamente in perdita nonostante il rally e aspetto che recuperi un po'. Nel frattempo però ho venduto, non compro bot, cerco un qualche cosa di più e avevo dei BTP a un buon prezzo, però sono saliti un pochino e li ho dati via. Parlo di BTP dai 15 anni in poi, perché hanno gli unici che hanno una resa insomma interessante. E poi dei corporate, e ho venduto anche questi corporate. Adesso vedo che appunto c'è una forte risalita di questi titoli. Conviene aspettare uno storno o continuerà così e tocca rimbarcarsi lì? Se deve rimbarcare, Drusiani. Liliana, la ringrazio molto, buone vacanze. Grazie anche a voi. Drusiani. Io credo che sui titoli obbligazionari, sui titoli di Stato controllati a medio-lunga che offrono dei rendimenti leggermente insomma, abbastanza interessanti, sia difficile vedere uno storno in tempi brevi. Anzi, credo che la prospettiva di rialzo di queste quotazioni sia abbastanza concreta e va di pari passo con il rialzo della borsa. Ma perché questo accade? Perché la sensazione che i tassi di interesse possano continuare a rimanere bassi perché non ci sono pressioni inflazionistiche è abbastanza diffusa. Quindi, comprandoli adesso, mi rendo conto che si investe rendimenti relativamente bassi sulle durate medio-brevi, ancora abbastanza interessanti su quelle lunghe, ma soprattutto la signora si mangerà un po' le mani perché li avrà venduti a prezzi nettamente inferiori, quindi comprare a prezzi superiori non sempre piace. Però l'impressione mia è che se aspetto uno storno di questi titoli dovrà aspettare ancora a lungo, quindi nel frattempo, il problema è che se nel frattempo investe in un pronto in conto termine o situazioni simili porta a casa praticamente nulla, quindi rimane o una quota del mercato azionario, secondo me, laddove vi siano ancora delle idee dove il rapporto prezzo utile è ancora abbastanza contenuto. È proprio come se fosse il portafoglio quello che abbiamo in borsa, ci teniamo dentro il denaro ma non ci dà nient'altro, esatto, al di fuori della custodia. L'ultimissima domanda di oggi, Franco da Foggia, un altro appassionato di dividendi a quanto vedo, e si chiede se alcune società saranno in grado di distribuirli quest'anno o meno, ci dica. Nelle prospettive di Pirelli e Fiat, ecco appunto, volevo sapere le prospettive di questi due titoli e soprattutto se daranno dividendi. Insomma. Allora, per quello che riguarda, mi pare che non ci sia nessuna prospettiva per entrambe le aziende, Rastelli. No, direi. No, non mi sembra l'anno buono per la distribuzione di dividendi da parte di Fiat, che ha fatto un trimestre piuttosto complesso, nonostante gli incentivi, con diciamo la redditività della componente auto che è ritornata nuovamente vicino. Ma non ci ricordiamo anche in che impresa si è imbarcata Fiat in questo momento negli Stati Uniti, per cui... Esatto, quindi mi pare che in questo momento chiedere a un titolo, a un manager come Marchionne, che ha questo tipo di scoglio davanti, è difficile immaginare che si possa anche erogare un dividendo, insomma sono altre le sfide in questo momento. Pirelli lo stesso, ho riguardato in questo momento, ma anche in questo caso nessun dividendo nel 2009 per questo gruppo. Allora io vi ringrazio molto per essere stati con noi, abbiamo cercato di guardare un po' al di là di agosto, quello che potrà accadere senza nessuna ricetta specifica, perché è meglio non darne. Ci ritroviamo qua allora a settembre per capire insomma cosa è successo ad agosto, quali prospettive avremo in autunno per i nostri investimenti. Ringrazio molto Massimo Rastelli, investitori SGR, a presto. Grazie a voi. E grazie anche ad Angelo Drusiani, lo ricordo ancora, Banca Albertini Siz, ma soprattutto un esperto del Sole 24 Ore, autore della guida del Sole 24 Ore ai titoli di Stato, come dar vita ad un portafoglio di titoli pubblici. Rastelli, lei quando scriverà un libro naturalmente racconterò anche dei suoi. A presto, noi ci ritroviamo il 31 agosto. Signori, buone vacanze a tutti. La Deborah Rosciani, vorrei ringraziare anche Gaia Romani e Alessandro Longoni, che sono i miei fidatissimi collaboratori, oltre che autori insieme a appunto di questa trasmissione, per cui ci risentiamo dopo l'estate. Buone vacanze a tutti.